I already know the answer. You are a disgrace. 也门的野中友好协会主席加迈尔。 Now to have psychologists and psychiatrists. 据说加迈尔先生在中国留学多年。 Jefferson Ming e l'arte del sorpasso di Stefano Pistolini. Hello Chicago. Every president's story has a creation. Hello Chicago, se l'Inter ha vinto lo scudetto, se i Boston Celtics hanno vinto l'NBA, beh, il pronostico più facile, i soldi più facili da guadagnare, vincere scommettendo sulla persona dell'anno per il settimanale Time. È appena uscito il verdetto, non so quanto fosse dato agli scommettitori, immagino quasi a niente, perché la persona dell'anno è la più prevedibile di tutte, forse quella che più meritava questo riconoscimento, Barack Obama. Sarà sulla copertina del prossimo numero del settimanale più famoso dell'anno, appunto come Person of the Year 2009, persona dell'anno 2009, succede all'uomo dell'anno scorso, che era Vladimir Putin. Vi ricordo che la persona dell'anno è la persona dell'anno in un certo senso per il rumore che produce, il rumore mediatico che produce, non necessariamente un rumore positivo, anzi in certi casi è stata eletta persona dell'anno una persona tutt'altro che così con il curriculum ben a posto. Comunque lo sprint facilmente se lo è aggiudicato Obama, battendo in volata, per modo di dire, quattro onorevoli concorrenti nell'ordine: Henry Paulson, Nicolas Sarkozy, Sarah Palin e il regista cinese Zhang Yimou, ovvero il curatore, l'inventore, oltre che di tanto ottimo cinema, anche della cerimonia di apertura, se non sbaglio anche di quella di chiusura di Pechino 2008, dell'evento olimpico. E quindi piove, no? Piove in certo senso sul bagnato per Barack Obama, l'uomo più popolare del mondo indubbiamente in questo momento. Infatti quello che avete sentito in apertura è il lungo documentario che Time, contestualmente all'annuncio del riconoscimento, ha pubblicato sul proprio sito, e comincia proprio in un modo piuttosto evocativo, dicendo: c'era una volta a Chicago, no? La città da cui la carriera politica di Barack Obama è dedicata, all'interno naturalmente una lunga intervista, anche piuttosto confidenziale, piuttosto in maniche di camicia, come dicono gli americani. Lui si lascia andare abbastanza all'introspezione, si racconta, dice: se seguiste me, Robert Gibbs, il portavoce, vedreste due persone che discutono, il mio staff lo sa quando mi arrabbio, io sono uno che non urla mai, una cosa che ha sempre funzionato con me quando era bambino è trattarmi bene. Insomma, Michelle trova che funziona anche con le nostre figlie, bisogna far capire le cose alle persone, non bisogna farle sentire troppo in colpa. La gente di solito vuole che si faccia, pretende, aspetta da me che si faccia la cosa giusta, e se gli si dice con chiarezza qual è e poi te la vedono fare, di solito si ottengono grandi risultati. Il ragionevole Obama. Il ragionevole Obama e la politica di Chicago. Sentite solo ieri come rintuzzava un giornalista che così in una conferenza stampa dedicata a nuove nomine, e più tardi ne parliamo, come fanno i giornalisti in questi casi, prendeva la prima a sinistra e si rimetteva a parlare dello scandalo Blagojevich. Ascoltate. Questo è il giornalista che dice: ma sì, va bene, adesso aspetti un attimo, le nomine lasciamo un attimo da parte, vorremmo sapere qualche altra cosa, e tra l'altro anche noi tra pochi istanti qualche altra cosa molto grossa ve la faremo sapere. Ma intanto sentite la risposta, così molto spazientito, che Barack Obama decide a un certo punto, interrompendo il giornalista, decide di dire: "Because I don't want you to waste your question. As I indicated yesterday, we've done a full review of this. The facts are going to be released next week. It would be inappropriate for me to comment." Gli dice: "Senti, ma perché butti via le tue domande, le tue chance, le tue opportunità di fare le domande? Già ho dato le risposte che dovevo ieri. Pat Fitzgerald, il procuratore che sta seguendo l'inchiesta, ci ha chiesto di segretare i materiali ancora per una settimana. Poi saprete tutto, ma lascia stare, no?" "The U.S. Attorney's Office specifically asked us not to release this until next week." "What about on the special election, the concept of that, given the kind of the chaos here in Illinois?" I've said that I don't think the governor can serve effectively." Il giornalista insiste, lui dice: "Io sono convinto che Blagojevich non manterrà il suo seggio, ma questa è una questione ormai interna allo Stato dell'Illinois, le decisioni le devono prendere là dentro." Ma oggi esce fuori qualcosa di più grosso e di più importante e anche di più pericoloso. Infatti il sommario dell'articolo pubblicato dal Chicago Sun-Times, uno dei due grandi quotidiani di Chicago, dice: "Blago drama for Obama", scusate la rima che piacciono tanto agli americani, "Blago drama for Obama", vabbè, ci possono stare ore su queste cose qua, ma insomma un po' di drama per Obama con questa storia di Blago alla fine sta venendo fuori, perché indiscrezioni raccolte dal Chicago Sun-Times, e non pensiamo che in una fase politica come questa si mettano a scrivere troppe fandonie, sarebbe troppo pericoloso per il quotidiano imboccare una strada di questo genere. Insomma, salta fuori che il capo dello staff di Obama, Rahm Emanuel, quello che fin dall'inizio è sembrata, no, la testa di ponte dello staff di Obama, semmai ce ne fosse stata una in questa storia, insomma quello che si era incaricato di andare a capire, a discutere con il governatore che ne ha o ne aveva facoltà di nominare il sostituto al seggio senatoriale di Obama, si era incaricato di discutere il nome giusto da selezionare, e salta fuori che Rahm Emanuel avrebbe fatto delle pressioni in favore di un nome assai particolare, ovvero Valerie Jarrett. Chi è Valerie Jarrett? Adesso a tutti gli effetti è una signora che si è già sistemata alla Casa Bianca, perché da qualche giorno è stata nominata a tutti gli effetti consulente della Casa Bianca, è entrata a far parte dello staff più ristretto di Barack Obama. Ma quando sono avvenute queste telefonate tra Blagojevich e Emanuel, Valerie Jarrett era soprattutto l'amica del cuore, la persona più vicino, la migliore consigliera e anche l'insider più sapiente, in un certo senso anche un importante pesce pilota della candidatura e poi del fattore transizione di Obama negli ultimi mesi della sua corsa. E Valerie Jarrett aveva manifestato interesse per quel seggio lasciato libero da quello che a tutti gli effetti è il suo più caro amico, e qualcosa si era mosso in questa direzione. Poi le cose probabilmente si sono fermate per tempo, perché pressioni di questo genere sono tutt'altro che consentite in America, e Valerie Jarrett era stata poi addirittura imbarcata a tutti gli effetti nello staff presidenziale, ma questa indiscrezione è una punta di un iceberg che può diventare decisamente molto molto ingombrante per Barack Obama nei prossimi giorni, quando ormai manca poco più di un mese alla inaugurazione. Arrivarci con un fardello di questo genere è tutt'altro che indicato. Queste e molte altre cose in scena oggi qui a Jefferson Ming, dove l'intero staff del programma, queste 300-400 persone che lavorano indifessamente per lavorare al programma, è naturalmente elettrizzato dall'ultimo giochino in città, ovvero dal sito di Facebook che ormai pompa come una vaporiera. Insomma, ieri eravate poco più di 300 e oggi siete molto più di 500, e neanche mi vado a informare su quanti siete, insomma in 200 vi siete aggiunti a questo sito di Facebook, dove cominciano anche a fervere i dibattiti, e date un'occhiata alla bacheca dei dibattiti, perché ne mettiamo in circolo anche noi e poi vogliamo raccogliere qui in trasmissione interattivamente i vostri pareri. Insomma, siamo molti più di 500, vi aspettiamo, diamo anticipazioni sul programma. Vi ricordo Jefferson Ming Radio 24 è quello il sito dove andare, non redazione Jefferson Ming, quelli siamo semplicemente noi che parliamo, ma so già di aver fatto un gran casino, insomma orientatevi un po'. Peraltro c'è anche un link che vi porta nel posto giusto, il link lo trovate sul sito della radio di Radio 24 e vi condurrà a destinazione. It's Christmas time. There's no need to be afraid. At Christmas time, we let in light and we banish shame. And in our world of plenty, we can spread a smile of joy. Throw your arms around the world at Christmas time. Tra l'altro abbiamo raccolto alcune delle vostre principali invocazioni, insomma, che sono arrivate, anche delle richieste precise che sono arrivate sul sito di Facebook del programma di Jefferson Ming. Naturalmente in tanti ci avete subito chiesto di Paolo, poi insomma potete verificare con i vostri occhi, e abbiamo pensato fosse arrivato giusto il momento per fare la telefonata di Natale con il nostro eroe di Shanghai, il nostro uomo che per amore ha fatto la scelta cinese, insomma la testa, come dire, la testa di ponte, l'occhio privato di Jefferson Ming nella Shanghai così più sconosciuta, no? Quella della vita di tutti i giorni, ma degli amori possibili e impossibili. Insomma, per farla breve, arriva Paolo tra 10 minuti. Siete anche invitati a mandargli messaggi di qualsiasi genere, spero dei meravigliosi auguri di Natale, perché l'uomo insomma è la vera incarnazione del motto resistere, resistere, resistere. I did not select Arnie because he's one of the best basketball players I know. Duncan has run Chicago's public school. Non ho selezionato Arnie perché è il miglior giocatore di basket del mondo. Allora, qui ci sono da dire due cose, una scherzosa e una è una seria. Quella scherzosa è che nelle tante, no, entità lobbistiche che stiamo cominciando a vedere in trasparenza nella formazione di questa squadra presidenziale per gli Stati Uniti d'America nel corso di questa lunga e particolareggiata transizione, una lobby certa è la lobby del basket. Oggi i giornali americani si divertono a stendere il quintetto base, insomma, della squadra di basket che potrebbe andare in campo a nome della nascente amministrazione, perché pensate un po', il nuovo arrivato, l'ultimo arrivato, ovvero Arne Duncan, ministro dell'istruzione, è stato addirittura un professionista, sia pure soltanto in Australia. Fra l'87 e il 91 ha giocato da professionista in Australia, è alto 2 metri, è amico di Craig Robinson, che poi sarebbe il fratello di Michelle Obama, nonché allenatore di pallacanestro, e quindi ci sarebbe ormai il quintetto base, è pronto, ne farebbero parte insieme naturalmente al playmaker Obama il nostro Duncan, 2 metri, lo mettiamo centro, poi ci sono due alette di riguardo come Jones e Holder, entrambi. Pensate che il generale Jones, anche lui alto 2 metri, questo è una temibile amministrazione, ha giocato negli Hoyas di Georgetown, una delle più famose e rispettate università d'America per quello che riguarda il college basketball. L'attorney general, il consigliere per la sicurezza, il prossimo attorney general, Eric Holder, ha giocato anche lui a New York, nel liceo, è stato una star della squadra del liceo Stuyvesant, e ha giocato anche per la Columbia University, anche questo NCAA. E poi c'è anche una donna, perché è giusto che un quintetto di una amministrazione sia, no, rappresentato da entrambi i sessi. Nella fattispecie c'è Susan Rice, anche lei ha giocato a basket nella National Cathedral High School di Washington, quindi una signora squadretta. Poi però c'è un discorso più serio che riguarda le nomine vere e proprie, perché siamo vicino alla fine delle nomine, ne sono state annunciate altre da Obama nelle ultime ore, una che era molto attesa, soprattutto il nome era molto atteso perché era un nome importante delle primarie, un nome importante del Partito Democratico che ancora non era stato convocato a far parte dell'amministrazione Obama, Tom Vilsack, il governatore, 2 volte governatore dell'Iowa, peraltro lo stato dove la grande, irresistibile, formidabile rincorsa di Barack Obama è cominciato. Ebbene, è stato convocato e gli è stato assegnato il Ministero dell'Agricoltura. La definizione, l'annuncio ufficiale della nomina dovrebbe avvenire oggi stesso, insieme tra l'altro a quella di Ken Salazar, che vi abbiamo già anticipato ieri come ministro dell'Interno. Tra l'altro, invece, per quello che riguarda Arne Duncan, di cui abbiamo appena parlato, il ministro dell'istruzione, un ministro molto importante nel prossimo mandato presidenziale, perché sull'educazione dei giovani passa una discreta fetta del piano, del progetto di Obama per la sua America, se è vero che ha detto che il futuro dell'America per i decenni a venire passa proprio per la scuola, è lì che va combattuta la battaglia per i diritti civili della nostra generazione. Non è un caso che l'annuncio Obama si è andato a farlo in compagnia di Duncan, del suo nuovo ministro dell'educazione, nella palestra di una scuola qualsiasi di Chicago. Si è seduto lì con i ragazzini che seduti davanti a lui per terra, che gli dicevano: Barack, quando è che vai a... è vero che ti trasferisci a Washington? Lui dice: sì, devo proprio andare, e ora tra pochi giorni parto. Poi dietro c'era il solito nugolo di reporter e lui ha dato l'annuncio. La strada per i posti di lavoro e la crescita comincia nelle nostre aule scolastiche, ha detto ancora Obama. Cerchiamo di non essere accecati dall'ideologia. Poi ha aggiunto, parlando delle charter school, che sono scuole che ricevono finanziamenti pubblici ma sono sottoposti a meno regolamentazione perché promettono di offrire eccellenza, risultati eccellenti. Non si può continuare così, ha detto Obama, è moralmente inaccettabile per i nostri bambini ed economicamente insostenibile per l'America. Abbiamo bisogno di una visione per un sistema educativo da XXI secolo. È qui che si deciderà se resteremo in questo secolo la potenza economica globale che siamo stati nel XX. Così parlò Obama in un momento di serenità, di chiarezza e di edificazione del suo staff. Poi, come abbiamo detto in apertura, ci sono anche dei momenti meno felici di questa fase di transizione legate allo scandalo dell'Illinois. Su questo e su molte altre cose torneremo tra poco, ma subito dopo le notizie di borsa arriva Paolo. E aprite le orecchie, naturalmente aprite tutti i vostri collegamenti con Jefferson Ming. Benvenuti in area Paolo e adesso ci piombiamo subito sopra, però insomma vi ringraziamo prima di tutto di quanti ci stanno mandando auguri via anche sms 349-238-6666, li ricambiamo con tutto il cuore, ad esempio OT che ci manda dei sinceri auguri e tanti altri. E la scaletta, caro Simo, la scaletta di Natale è dotata di aggettivazione implacabile, quindi purtroppo ci siamo dentro, non so cosa posso fare, non vedrò. Poi Gabriele: che Paolo riesca con questa perseveranza italica a domare la tigrotta cinese, scrive caro Emiliano, il nostro ascoltatore. E allora quale migliore premessa, no, per ricordare chi sia questo benedetto Paolo e poi dove stiamo andando. Paolo ormai è un amico di Jefferson Ming da un anno e mezzo, direi, da un'estate calda, appassionante, che lo ha portato in Cina nel 2007, lo ha portato a conoscere questa giovane ragazza di una decina d'anni meno di lui. Paolo è un veneziano di 35 anni, è scoppiato l'amore che per un paio di mesi è andato avanti a colpi di mail, di telefonate, credo costosissime, dall'Italia alla Cina, finché alla fine Paolo ha rotto gli indugi e più o meno un anno fa, era novembre credo del 2007, è partito armi e bagagli, ha lasciato l'Italia, ha lasciato un lavoro sicuro, ha un po' litigato la famiglia, poi ha fatto pace, però insomma è da un anno che vive a Shanghai, tra alti e bassi, alla ricerca di un lavoro sicuro che non ha ancora trovato, a lottare con il visto che comunque ha sistemato questa pratica almeno fino a maggio dell'anno prossimo, e poi a vivere questa storia d'amore complicata ma anche affascinante con questa giovane 24enne di Shanghai. Poi soprattutto è un eroe, insomma, diciamolo chiaramente. Noi abbiamo seguito anche la parabola di Paolo dentro il programma, no? fra voi, tra gli umori di voi ascoltatori, inizialmente perplessi, anzi molti anche innervositi. Qualcuno bello cattivo. Sì, ma sei un pollastro, sei caduta nelle grinfie di una ragazza che magari vuole approfittarsi di te, ma che fai? Torna a casa, vai a lavorare, quant'altro. Poi poco a poco però la temperatura attorno a Paolo è cambiata, prima di tutto perché la sua vita in Cina almeno fin qui non è stata facilissima, e poi perché c'era comunque il gusto di questa impresa, magari no, un transfer di tanti di noi, di questa impresa nel nome dell'amore all'altezza dell'anno 2008, mica se ne fanno più tante, no? Ormai i messaggi sia via SMS sia via mail, sia quelli recentissimi freschi su Facebook, volano sulle note del romanticismo, sì, nei confronti di Paolo. La maggioranza lo ama. Allora cominciamo ad ascoltare Paolo, perché è Natale anche a Shanghai, è il momento dei pacchi, dei regali, tutti ne ricevono, naturalmente Paolo, essendo Paolo, riceve un pacco regalo un po' particolare. Mi sono trovato una piccola sorpresa proprio oggi, che non so se resterà tale fino a Natale, ma che è successo? Della serie Caramba che sorpresa, mi sono ritrovato oggi qualche ora fa la zia è qui in casa, e da quello che ho capito dovrebbe la stare zia della fidanzata qua. Sì, la zia della fidanzata, sì, e dovrebbe stare, ho chiesto quanto sta, forse una settimana mi ha detto, non lo so. E quindi, ma non ti aveva avvertito di questo arrivo improvviso della zia? Ma già nel corso di quest'anno è già la seconda volta che me la ritrovo qua. Già la scorsa primavera mi aveva avvertito praticamente qualche ora prima, si era dimenticato. Oggi mi ha avvertito mezz'ora prima che bussasse alla porta. E è gentile. Prima ho chiesto, ma non lo sapevi? E mi ha detto... me l'aveva detto qualche settimana fa, poi non mi ha più chiamato, non siamo più entrati in discorso e mi ero dimenticata. Ma come l'hai presa? Com'è la convivenza con la zia? È qui vicino. No, il problema principale ovviamente è l'incomunicabilità, cioè nel senso che io non parlo cinese, lei non parla inglese, né tantomeno italiano, quindi praticamente non possiamo comunicare. Vabbè. Anche se zia è comunque giovane e di gradevole aspetto, ma al di là di questo non attenzione Paolo, non fare danni, mi raccomando. No, vabbè, è solo così. Però non, ecco, è che è una presenza stare qualche giorno qua, a parte il fatto del sottoscritto che toccherà emigrare di notte, dormire nella living room, però a parte questo è comunque non è il massimo, ecco, della... Anche perché mi sento un po' in imbarazzo per il fatto di non poter comunicare. No, è che ovviamente l'intimità va a farsi benedire. Beh, insomma, ci sarebbe già qui da aprire una 4 ore di... Voglio anch'io andare nella living room. La zia. Dove Paolo andrà per questi giorni. La zia non la prevedeva nessuno, ne sono piuttosto certo, altro che amici. La zia, l'apparizione della zia, come si dice, piacente, stata... la vecchia zia piacente, no, di una volta. Tutt'altro che vecchia, quanto pare. Cioè, no, vecchia nel senso di italica memoria. Zia piacente che arriva da fuori con la valigia. Vediamo come proseguirà, soprattutto vediamo quanto si fermerà. Lui ha prosegato una settimana, ma secondo me va avanti fino al capodanno cinese. No, ma poi che sia di monito a tutti coloro che dicono Paolo, te cornuto, di qua, di là. Vedi Paolo poco a poco come, no, in un certo senso... espande le sue onde nella cittadinanza cinese. Ma poi i colpi di scena mica finiscono qui. È una telefonata pirotecnica quest'ultima con Paolo. Allora, lui ce l'aveva detto, tra l'altro, che nel frattempo il problema del visto l'aveva risolto, ma il problema del lavoro no. Insomma, no, ne ha tentate tutti, alberghi, vendite per corrispondenza, qualsiasi cosa, insomma, non funzionava. Anche stamattina ha fatto dei colloqui, mi ha detto. Continua a fare colloqui, ma nel frattempo però, veramente, l'italica, no? Il genio italico, la soluzione forse è venuta la più inaspettata. Mi dice la parola stessa lezione di tennis, ho iniziato la settimana scorsa a dare qualche lezione di tennis, ma siccome la passione del tennis ce l'ho sempre avuta fin da ragazzo, esattamente dall'86, quindi 22 anni fa, ho sempre praticato questo sport, sono stato appassionato e quando ero in Italia un po' l'ho anche a tempo perso, proprio a tempo perso l'ho anche insegnato. E quindi, visto che lavoro con la L maiuscola tarda ad arrivare, mi sono detto... come posso fare per accumulare qualche lira? Noi italiani siamo famosi per essere così creativi o ingegnosi, mi sono un po' ingegnato, ho detto, oltre alle lezioni di italiano che sono la cosa un po' più scontata, ho detto proviamo a vedere un po' se riesco anche a dare qualche lezione di tennis. E quindi, quanti allievi hai in questo momento? No, beh, ma avendo iniziato ma l'idea l'ho messa in pratica 3 settimane fa, mettendo l'annuncio su qualche sito di quelli frequentati dagli expat o quelli che riguardano Shanghai, la comunità shanghainese, come si suol dire. E intanto ho iniziato con una persona, una donna, e poi mi ha contattato anche un'altra ragazza. Italiano, maestro di tennis, e ti si prospetta un grande successo con le donne, eh? È un classico questo. Ma il classico è il maestro di sci, credo anche. No, anche quello di tennis, anche quello di tennis. Anche quello di tennis, sì. A me è quello che interessa, solo racimolare qualche lira. Ecco. Non so se lo sai, ma da qualche giorno siamo entrati piacevolmente nel vortice di Facebook. È stato aperto da per ora sconosciuti fan un sito dedicato a noi, Jefferson Ming Radio 24, e già con la pubblicità che abbiamo fatto anche noi in radio in questi giorni il numero degli amici è salito oltre 500. Ti leggo un messaggio che è arrivato proprio poche ore fa, firmato da Alberto, che dice: dopo aver fatto le varie cose, dice, dopo aver visto le donne in giro per Shanghai, capisco un po' di più il nostro Paolo. E poi ci sono molti messaggi che chiedono come sta Paolo, ti portano gli auguri di Natale, tu che cosa ti senti di dire a questo popolo di Facebook che, come già i nostri amici via SMS o via mail, sono veramente innamorati del tuo personaggio, della tua storia in Cina, e veramente in moltissimi ti vogliono bene. In effetti, se si viaggia un po' per la Cina e poi si viene qua a Shanghai, si nota subito che qui a Shanghai, diciamo, la bellezza femminile non manca rispetto un po' al resto del paese. Poi che dire, io sono qua, comunque sono qua solo per una, non per altre. E agli affezionati di Facebook, non so, io purtroppo per ora non sono un grosso frequentatore di Facebook, so che sempre più gente ne rimane coinvolta, e siete stati tirati in ballo, coinvolti anche voi. Vediamo se magari è una calamita irresistibile a buttarmi nella mischia anch'io prossimamente. Se non posso fare altro che ringraziare coloro che mi seguono. All the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've got no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned way down low, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. We finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. L'ondata positiva, l'ondata natalizia del resto, insomma, nei confronti di Paolo sta montando. Roberto da Trieste scrive: ammiro davvero il coraggio di Paolo, non credo molti avrebbero deciso di mollare tutto e trasferirsi in Cina per una donna, o ancora molti sono inquietati, del resto anche noi siamo inquietati dalla figura della zia. Devo qualcuno dire... chiede se sa cucinare, ma sì, che cosa importante. Sì, su Facebook Vincenzo ci chiede anche se la ragazza ha una cugina, perché è apparsa la zia, dice la famiglia si allarga, però cercate veramente, siete maliziosi, insomma. Qui siamo alla telefonata di Natale con Paolo, ridotto nel living room per l'arrivo della ingombrante zietta, anche perché abbiamo capito che insomma in Italia non torna per le vacanze. No, non torna, come ci aveva già preannunciato qualche settimana fa. Se ti ricordi, Stefano, era partita anche una sorta di colletta telematica via mail, perché molti degli ascoltatori erano anche disposti a regalare i punti della carta aerea a mille miglia. Poi non credo siano cedibili, poi avere punti all'Italia forse in questo periodo non è il massimo della vita, sta meglio Paolo a Shanghai. Comunque insomma non poteva tornare per tante ragioni, anche quelle economiche, non le ha nascoste, quindi spera magari nel prossimo anno, in un prossimo Natale, certo, più florido e più ricco, per tornare in patria. Vediamo come passerà allora Natale da quelle parti, a Shanghai. Come ho detto l'altra volta, non ritorno in Italia, le cose non, dall'altra volta non sono cambiate granché, lavorativamente parlando, quindi previsioni o ipotesi di ritorno del famoso rimpatrio natalizio in Italia purtroppo no, quindi il Natale lo passerò qua a Shanghai con la ragazza. Ora non so, non abbiamo fatto ancora idee, programmi, dipende anche un po' dai suoi tempi, perché qui, come sapete, qui i cinesi tanti giorni di festa, orari di chiusura non ne hanno, quindi lei, da quello che ho capito, il giorno di Natale dovrebbe lavorare normalmente. Vediamo se ovviamente in orario diurno riusciamo a fare qualcosa. L'idea mia era quella di fare, se l'italiano famoso che sta nel mio stesso stabile, che tra l'altro, apro e chiudo parentesi, ha traslocato proprio in questi giorni, ha traslocato ed è venuto, guarda caso, nel mio stesso piano, l'idea è quella di fare un mini cenone natalizio qui tra di noi. Sta diventando un sindaco di condominio, Paolo, altra che storia, ormai nel fabbricato, insomma. Sta ricreando una piccola comunità italiana. Esatto. Ma secondo me ce la sta facendo, Paolo, sta sfondando. Mi sembra in ottimi spiriti, tanti messaggi. C'è Luca che ci chiede di vedere la zia in fotografia sul sito, ma ancora non disponiamo di materiali così eccezionali. Ma possiamo chiedere a Saro, non so presto di fare una visita a sorpresa a casa di Paolo. Di entrare in possesso. Va bene, comunque per concludere questo spazio, dovuto spazio natalizio di Paolo, eccoci agli auguri di Natale. Faccio prima di tutto un augurio di buon Natale, di buone feste a Jefferson Ming, visto che mi ha seguito per tutto quest'anno e anche l'anno scorso, quindi ormai si è creato questo rapporto così stretto, e ovviamente vi faccio i migliori auguri di buon Natale, di buone feste. Poi ovviamente faccio anche a tutti coloro che seguono il programma e che quindi ogni tanto ascoltano anche il sottoscritto, auguro a tutti un buon 2009, e sperando che il 2009 porti un po' a tutti quanti cose, tutto ciò che desiderano, insomma, ecco. Poi me li faccio allo specchio, quindi me li faccio anche al sottoscritto, sperando che il 2009 sia, non voglio tanto di più, basta sia come il 2008, con solo una cosa in più, il lavoro ovviamente. Ecco. Prima pagina. Beh, bella questi auguri allo specchio di Paolo, che poi alla fine parla di cose serie, parla di lavoro, e naturalmente i nostri auguri raggiungono lui come tutti i nostri ascoltatori. E vediamo adesso invece qualche notizia dal mondo. Allora, i potenti mezzi di internet non ci permettono soltanto di sbarcare su Facebook, ma permettono anche a un gruppo di studenti cinesi di fare un rapporto cattivissimo nei confronti della Coca-Cola, diffonderlo sul web cinese e poi essere ripreso in prima pagina dei giornali, appunto, del grande continente cinese. Questo rapporto diffuso su internet da questo gruppo di studenti cinesi accusa la Coca-Cola, quindi se la sono presa veramente con un gigante, con il Golia della situazione. Insomma, l'accusa è di sottopagare e sfruttare i propri dipendenti, che hanno hanno contratti a termine che poi insomma vengono rinnovati in modo abbastanza discutibile. I dirigenti della Coca-Cola per ora hanno respinto le accuse, però in sostanza le accuse sono gravissime, si parla di orari di lavoro troppo allungati, salari eccessivamente bassi e poi insomma operai che lavorano anche con continui rinnovi di contratto per 10 anni, ma insomma sono cose che capitano anche qui da noi in Italia. Grazie anche a Michele degli auguri che ci fa sul sito, mentre Massimiliano lancia nello spazio un dibattito, anche noi ne abbiamo messo in circolo uno che riguarda questo passaggio senatoriale tra Hillary Clinton e Caroline Kennedy, che personalmente ci inquieta un pochino, stanno arrivando i vostri pareri, domani ne parliamo magari. Massimiliano ne manda invece in orbita un altro sulla famosa questione delle scarpe, tante sono tra l'altro le novità sulla storia della scarpata a George W. Bush, non ultimo il lancio di questa terribile, di una linea di scarpe ispirate a quelle del lanciatore. Tu dici che era inevitabile, ma hanno subito fatto marketing. Io non smetto, sì. Ecco qua, in Algeria hanno creato in suo onore una linea di scarpe, Muntaser, porterà il suo nome, un nuovo prodotto, il nome del giornalista iracheno. Prende soldi lui, spero di sì. Me lo auguro anch'io. E tutta la stampa algerina ha dato ampio spazio alla vicenda. Pare che i suoi fratelli fanno sapere che un'udienza riguardo alle accuse che lo riguardano si sarebbe già svolta stamattina e il giudice lo ha visto e poi è venuto a dirci che nostro fratello ha avuto un atteggiamento cooperativo. Magari si cercherà alla fine di minimizzare questa storia. Però andate a vedere il dibattito e mettete la vostra nello spazio argomenti. No, questo atteggiamento cooperativo ha portato le scarpe in tribunale, che ha fatto? Credo che cerchi di uscirne, insomma. No, comunque alla fine ne uscirà come grande vincitore poi di questa storia, con un grande anche vantaggio, spero. Per lui economico. Sempre dalla Cina invece brutta notizia di una condanna a morte di due uiguri ritenuti responsabili di un attentato condotto pochi giorni prima dell'inizio delle Olimpiadi. Ricorderete un'esplosione violentissima il 4 agosto, quindi veramente alla vigilia dell'apertura dei giochi di Pechino 2008. All'epoca vennero uccisi 17 poliziotti. Rimangono però grossi dubbi sulla dinamica dei fatti e quindi anche su questa condanna a morte che pesa su due giovani, uno di 33 uno di 28 anni, uno è un tassista e l'altro un fruttivendolo dello Xinjiang, questa zona a maggioranza islamica che insomma ha tanti problemi e una certa indipendenza vuole avere da Pechino. Ultima notizia per gli appassionati di computer Apple, fra cui ci gioiosamente iscriviamo. Arrivano notizie un po' allarmanti dalla casa madre. Steve Jobs non sarà presente al prossimo appuntamento Macworld, quello in cui tradizionalmente vengono lanciate in orbita le novità della casa. C'è chi dice che è semplicemente perché Apple questa volta non ha gran cose da presentare e c'è invece chi più allarmista sostiene che potrebbero esserci nuovi guai di salute per il grande uomo, la grande mente della informatica americana. Non a caso immediatamente il titolo, no? Il titolo Apple ha preso una bella botta ed è sceso del 2.7%. All right, you chipmunks, ready to sing your song? I'll say we are. Yeah, let's sing it now. Okay, Simon. Okay. Okay, Theodore. Okay. Okay, Alvin. Alvin. Con i Chipmunks vi accompagniamo alla fine di questa puntata di Jefferson Ming. Stefano Pistolini, Emiliano Enrico, in regia Valerio Rocchetti a Roma, Pietro Lacorte a Milano. Vi ricordo Jefferson Ming at radio24.it o su Facebook cercate Jefferson Ming Radio 24, sul sito della radio c'è il link per raggiungerci. Siamo in contatto 24 ore al giorno, ci risentiamo dal vivo invece domani, come sempre attorno alle 4 qui da Radio 24.